Quello diventa colui il quale mette a repentaglio l'economia e l'immagine del territorio, mentre invece l'imprenditore che inquina è una persona rispettabile che in alcuni casi addirittura premiamo facendolo diventare gli amministratori dei nostri paesi. E sicuramente non vengono nemmeno osteggiati dalle istituzioni, soprattutto quelle politiche, perché loro, con le loro aziende, muovono l'economia e sono dei bacini di voti. Però a volte succede qualcosa di imprevisto, no? Come diceva Pacchiano, anche qui credo che ancora oggi dicono che non è successo niente alla Marnane, che non ci sono i veleni, eccetera. Però ad un certo punto, a volte nelle istituzioni, si trovano delle persone con una coscienza che vanno oltre, che sposano i diritti della gente, che vogliono salvaguardare, che fanno gli interessi dei cittadini comuni e vanno a scavare, cercano la verità e aiutati dai cittadini che sanno e che vogliono far emergere la verità, riescono ad andare fino in fondo. Forse oggi qualcuno dice che è tardi perché sta arrivando la prescrizione per la Marlani. Io spero che non sia così e che invece si riesca a fare giustizia, ma soprattutto che si faccia chiarezza su quanto avvenuto nella Marlana e quindi si proceda alla bonifica, perché poi alla fine quello che ci accomuna, quello che è il nostro obiettivo principale, è la bonifica, il risanamento del territorio, perché noi facciamo le lotte, facciamo le manifestazioni, ma poi passa il tempo, le navi sono in fondo al mare, i veleni rimangono nei nostri terreni. Quindi è importante che la popolazione, le popolazioni locali che subiscono in prima persona questo problema si diano da fare per proteggere il proprio territorio e ad affiancare alla lotta la proposta. Noi è quello che stiamo cercando di fare da Mantea, perché se aspettiamo le istituzioni hai voglia. A noi praticamente abbiamo visto che stiamo seguendo il processo, il nostro processo in modo particolare, quello della Marlana, quello della Valle dell'Oliva. Abbiamo visto come sulle carte, e Francesco ne è testimone, come sulle carte prima ci sono dei materiali inquinanti, poi si fanno delle ulteriori analisi e ne sparisce qualcuno, poi si fanno delle ulteriori analisi e ne sparisce qualcun altro, fino ad arrivare alla famosa relazione dell'ISPRA, dove quasi quasi nel fiume Oliva non c'è nulla, soltanto inerti e qualche rifiuto solido urbano. Quindi addirittura si parla delle tracce di materiale radioattivo che è stato trovato come un radionucleo artificiale, mentre invece sappiamo, perché non lo diciamo noi, ma lo dice la scienza, che il cesio 137 in natura non esiste, mentre invece sulle carte ufficiali si parla di radioattività naturale. Bene, che cosa stiamo facendo noi per esempio? Ci vorrà del tempo sicuramente, ma quello di il problema anche del fatto che avvengono queste cose è sicuramente un problema culturale. Quindi stiamo andando nelle scuole, stiamo facendo degli incontri con le altre associazioni per cercare di diffondere, per risolvere il problema dei rifiuti, per esempio, stiamo cercando di diffondere la cultura della raccolta differenziata e stiamo addirittura cercando di studiare, di fare uno studio di fattibilità che poi regaleremo alle comunità, alle amministrazioni che ci sono e che succederanno, affinché possa essere avviata anche sui nostri territori questo tipo di trattamento dei rifiuti. Cerchiamo di parlare con gli imprenditori onesti, perché non sono tutti disonesti, affinché anche loro trovino interessante lavorare con i rifiuti e magari possano avviare un impianto di compostaggio piuttosto che di separazione dei beni che vengono fuori dalla raccolta differenziata. E in ultima analisi stiamo cercando di studiare anche di trovare una soluzione per la bonifica. Ultimamente abbiamo dialogato con tanti studenti, alcuni hanno sposato la causa, hanno realizzato delle tesi ed è proprio di due giorni fa una tesi di un ragazzo di Amantea, una tesi sperimentale di un ragazzo di Amantea che studia ingegneria ambientale, che ha fatto una tesi lavorando su due proposte di bonifiche nella Vallata dell'Oliva. Noi queste cose adesso le studieremo, vedremo se sono fattibili anche dal punto di vista economico, perché in un periodo di crisi come questa non credo che ci sarà istituzione che sarà disposta a spendere milioni di euro per mettere mano a tutti i disastri che ci sono in Calabria. E quindi cerchiamo di studiare qualcosa che possa essere economicamente vantaggioso e che possa dare dei risultati alle collettività. Grazie Gianfranco Posa. Alla Marlana si è posto anche un problema nei terreni della Marlana, che appunto sotto quei terreni ci sono delle falde acquifere, hanno fatto delle analisi e per fortuna le analisi hanno dichiarato che quelle acque sono pulite, però non tutte, le falde acquifere della Marlana sono state analizzate. Quindi il problema dell'acqua è un problema che si pone in modo molto, molto forte. In Calabria c'è un comitato che si occupa proprio della difesa dell'acqua pubblica. Abbiamo qui un rappresentante che adesso appunto vi dirà che cos'è la situazione dell'acqua in Calabria e come si sta lottando per renderla pubblica, pulita e che sia appunto per tutti. Grazie. Grazie a tutti per aver organizzato questa manifestazione che è molto importante e parla di una problematica di una gravità assoluta. Talmente importante che sembra quasi fuori luogo o comunque essere un argomento, diciamo, di rilievo un po' inferiore, quello relativo alla gestione dell'acqua, alla ripubblicizzazione dell'acqua, perché riguarda sì la vita delle persone, ma non intacca così direttamente la nostra salute e non provoca, almeno in modo immediato, una quantità di sofferenza come quella che hanno vissuto le persone che vivono questo territorio. E però c'è, come spiegava bene Francesco, un filo conduttore tra fiumi, tra terreni, tra aria inquinata e pulita, acqua che scorre libera nelle falde o nei fiumi, acqua che invece viene intubata e arriva fino nelle nostre case. Ed è il filo conduttore dei beni comuni. Noi da questo punto di vista stiamo combattendo una battaglia su più fronti, che dobbiamo saper vedere appunto nella sua interezza e saper combattere in più fronti con diversi livelli di intensità, magari con un forte impegno sul territorio rispetto a questioni specifiche e con un impegno più diluito nel tempo, ma non meno importante, relativo a questioni di carattere più generale. Per quanto riguarda l'acqua, ricordiamo tutti la sorprendente vittoria del giugno del 2011, è passato un anno e mezzo da allora, quando siamo riusciti a portare alle urne più della metà degli italiani, resuscitando tra l'altro uno strumento democratico che era dato per molto morto e sepolto. Beh, nonostante quella vittoria, saprete anche che ci sono state delle resistenze fortissime da parte di realtà che avevano a disposizione molti mezzi di persuasione, soprattutto dal punto di vista economico, e pochi passi sono stati fatti verso una reale ripubblicizzazione dell'acqua. Lo stesso discorso vale anche in Calabria, soltanto che, come al solito, abbiamo una specificità. E non tutti forse sanno che la Sorical, la società che gestiva l'acqua a livello regionale, è in liquidazione. La Veolia, il partner privato, questa grande multinazionale francese, è in fuga, ha fatto un sacco di danni e cerca di scamparsela scappando via, non solo per quanto riguarda l'acqua, ma anche per quanto riguarda i rifiuti, proprio a sottolineare come siano unitarie le nostre battaglie, come possono essere condotte a un minimo comune denominatore. Ebbene, adesso cosa sta succedendo? Sta succedendo che tutti i politici calabresi non riconoscono più questo figlio che prima, fino a poco tempo prima, era stato così vantato, la Sorica, l'esempio di efficienza. Adesso nessuno riconosce più la Sorica, tutti dicono che la Veolia ha fatto solo danni. Qual è la soluzione che si propone a livello di consiglio regionale? Trovare un nuovo partner privato che possa avere ancora in misura maggiore voce in capitolo nella gestione delle risorse idriche, per ricominciare lo scempio da capo. Allora noi diciamo no, e lo diciamo in modo anche molto concreto. A brevissimo partirà una nuova campagna di raccolta firme, questa volta per una legge popolare, una legge di iniziativa popolare regionale sulla ripubblicizzazione del servizio idrico, per gridare che noi gli affari, il business sui beni comuni, sull'ambiente, sull'aria, sull'acqua, sul suolo, non vogliamo che siano fatti, vogliamo che questi beni siano fruibili da tutti e non siano rovinati per l'interesse di pochi. Ovviamente all'interno di questa battaglia, nei tanti banchetti che ci saranno, ci faremo portavoce delle tantissime battaglie per l'ambiente che sono in corso nel nostro territorio, in particolare quella sulla Marlane, e grideremo a tutti e comunicheremo a tutti il fatto che non è giusto e non vogliamo e non deve accadere che anche dal punto di vista giudiziario questa battaglia svanisca in una bolla di sapone. Grazie. Allora, tutti quanti conoscete Ulderico Pesce, che è un regista e attore, insomma, è anche un militante, si è speso molto sulla battaglia sul fiume Noce e, insomma, adesso è qui e vuole intervenire su questo. Allora vi ringrazio molto, vi vorrei fare innanzitutto una domanda, per alzata di mano, mi devo rendere conto di una cosa. Quanti di voi sono di Praia? 25. Una ventina. Allora voi mi dovete perdonare, vorrei iniziare questo mio piccolo intervento, no? Cercando di capire, anche se questa organizzata dai nostri amici Cirillo e compagni è un'assemblea di natura regionale, vorrei cercare di capire assieme a voi com'è che ci sono 15 persone di Praia. Parlo essendo nato in un paese molto vicino a Praia, cioè l'ultimo comune, il penultimo comune della Basilicata, cioè Rivello, subito dopo c'è Lauria e poi c'è Maratea. E poi c'è Praia. Quindi un po' parlo come vicino di casa, anche perché quest'area non è Calabria e non è neppure Basilicata. È un'area dove convivono dei popoli che sono accomunati da un punto di vista culturale, da un punto di vista antropologico, da un punto di vista culinario. Cioè, l'area della Valle del Noce è Calabria e Basilicata assieme. Allora vorrei, proprio chiedendo anche ad amici che vengono da Cosenza, da altre parti della Calabria, cioè qual è il motivo per il quale ci sono 15 persone di Praia a Mare? E vi voglio raccontare brevissimamente che è successo ieri o l'altro ieri. Allora, l'altro ieri è morta una signora, si chiama Incarnato questa signora, ha una quarantina d'anni. Ed è di Tortora. Il marito è di Tortora, lei viene da fuori. Hanno una figlia, più o meno 14-15 anni. Hanno vissuto e vivono in un'estrema precarietà. Questa bambina, che oramai ha 15 anni, è andata alla scuola media, poi all'istituto alberghiero. Sono intervenuti più volte i servizi sociali. Poi mi piace dire proprio quello che la penso, senza pensare alle conseguenze. Il padre è stato arrestato, è agli arresti domiciliari. La bambina doveva essere seguita a scuola. La mamma non stava troppo bene con i nervi e quindi andava seguita. Poiché guadagnavano 250 euro al mese, non ce la potevano mai e poi mai fare a vivere con una certa decenza. Questa signora è andata a fare la spesa, è partita da Tortora, paese, a piedi. Ha fatto la strada che costeggia la ferrovia. È arrivata all'altro lato della Marlane, una macchina, una panda l'ha investita poco poco, è finita in un canneto ed è morta. Attenzione, è stata investita alle ore 18. L'hanno trovata il giorno dopo di notte. La bambina è partita, non hanno un euro, è partita col pullman, senza soldi. Sul pullman una signora gli ha dato 10 euro, è arrivata a Cosenza per vedere la madre morta, ieri, non gliel'hanno fatta vedere. Ci sono indagini in corso e quant'altro. La bambina è tornata, va a scuola a Praia. È di Tortora, cioè della mia area, dell'area dove sono nato e vivo. Com'è che una famiglia simile vive senza un briciolo di solidarietà della gente? Com'è che la gente di Praia e di Tortora non si accorgono di questa bambina che cresce male? Com'è che la gente di Praia e di Tortora non si accorge che questa donna è finita in un canneto e la ritrovano dopo 24 ore? Com'è che questa bambina non hai soldi per andare a trovare la mamma, per vederla all'ospedale. Cioè, com'è che in quest'area non c'è un briciolo di solidarietà? Com'è che in quest'area c'è soltanto individualismo sfrenato? Ma se noi non facciamo attenzione a una bambina di 15 anni che vuole vedere la mamma morta, ma possiamo mai vedere i fusti di cromo 6 sepolti là sotto? Quest'area, che è la mia area, ha bisogno di siringhe, di umanità prima di tutto. Non può essere che un corteo simile passa in una città come Praia, dove c'è uno dei, dei processi più importanti d'Italia sulla salute delle persone e sull'ambiente, e la gente non chiude le saracinesche e ci segue. Sapete perché succede questo? Agli amici di Cosenza, di Paola, che sono arrivati da lontano, mo ve lo dico in due o tre parole. Nella mia area non c'è libertà. Nella mia area, dai tempi del Conte Rivetti, quando arrivò il Conte nel 56-57 ad aprirci le fabbriche tessili, una a Maratea, la R1, una a Praia Mare, la R2, dove i lavoratori sono stati costretti a faticare ai telai con i freni in amianto. C'erano 120 telai con i freni in amianto. La particella più piccola di amianto è 1300 volte più piccola di un capello. Si respira, va nei polmoni, si incarna e genera il mesotelioma pleurico. Il Conte ci ha portato 120 telai in amianto, che sono stati dismessi nel 1996, quando la dismissione era obbligatoria per legge nel 1992, anche se le industrie tessili conoscevano la gravità dell'amianto sin dal 1963. Ora il Conte ci veniva a prendere per fame, Rivetti, un Conte che oggi addirittura è venerato a Maratea, un Conte che venne ad aprire questa fabbrica Marlane grazie a 17 miliardi investiti dalla Cassa del Mezzogiorno. Rivetti era molto amico del mio corregionale Emilio Colombo, che era presidente del Consiglio, e riuscì ad avere 17 miliardi di euro, di vecchie lire, per aprire una fabbrica, due fabbriche, che hanno portato la morte nei nostri luoghi. E noi di quest'area ancora continuiamo a venerare Rivetti guardando il Cristo dove lui si è fatto raffigurare, continuiamo a venerare la classe politica che ha fatto business attorno a Rivetti e a che ancora non riusciamo a stroncare. Perché vi dico perché la gente non ci segue. Non ci segue perché i sindaci dell'area, forse se ne salverà qualcuno, i sindaci dell'area tengono in mano il potere, tengono catalogati i cittadini. A quello gli ho fatto avere la lavatrice, a quello gli ho fatto avere una concessione edilizia, se lo vedo qua gli faccio abbattere il balcone, a quell'altro è così, va sicuro che è così, anzi lo sapete tutti che è così, perché altrimenti a una manifestazione simile dovevamo essere 2000 persone, non 200. La gente non è libera, e allora voi per essere qui significa che siete poco poco più liberi degli altri, e allora noi abbiamo bisogno di fare siringhe a questa comunità, siringhe per portare questa gente a riacquistare la propria libertà e la propria dignità. Vedete, la Calabria è massacrata, letteralmente massacrata. L'amico che ha parlato del torrente Oliva, ma può mai essere che la Jolly Rosso, una nave piena di rifiuti tossici, si ferma ad Amantea, che ci sono le fotografie, partono rappresentanti dello Stato italiano. E dove vanno a piazzare i fusti di questa nave? Nel torrente. Oh, ma che Calabria è questa? E vanno a misurare la radioattività sul torrente Oliva ed è elevatissimo. E dicono che è di natura naturale, cioè che avere la radioattività sul torrente Oliva è totalmente naturale. E come è morto Natale De Grazia? Natale De Grazia, che è questo capitano, persona seria della Calabria viva e pulita, scopre il traffico di navi, sta andando in Alta Italia, sta andando alla Spezia per vedere da dove è partita questa nave, con altri due carabinieri, si ferma in un motel a Nocera Inferiore, si piglia un caffè a Nocera Inferiore, assieme agli altri due carabinieri, e muore nella macchina Natale De Grazia. L'autopsia, non si capisce i risultati dell'autopsia. La moglie, che conosciamo bene, due autopsie, conosciamo bene con Cirillo la moglie, ancora rivendica e piange giustizia per il marito, un rappresentante dello Stato. In quest'area, nell'area dove noi mettiamo i piedi in questo momento, insiste la Marlane. La Marlane, quando arrivò il conto Rivetti e aprì, grazie a questi 17 miliardi di vecchie lire, questa industria, costrinse gli operai a lavorare tingendo i tessuti in certe vasche enormi che ancora esistono, e un mio compaesano rivellese ci ha lavorato, Giovanni Buraglia, quindi proprio le notizie ce l'ho, diciamo, di prima mano, eh? Ed è morto anche lui. Bene, questi tessuti venivano buttati in questa vasca, e queste vasche con quest'acqua che bolliva mandava questi fumi tossici da tutte le parti, e gli operai lavoravano senza mascherine, e in più, per fissare il colore sui tessuti, utilizzavano il cromo 6. Senza cromo 6 i colori non si attaccano al tessuto, dopo due giorni lava e le età. Utilizzavano il cromo 6 per fissare il colore. Bene, il cromo 6 entra come rifiuto rispetto al cromo 2 o al cromo 4, cioè va a incidere sul DNA degli esseri viventi che tocca. Vale a dire, mentre gli altri agenti chimici, il cromo 2, il cromo 4, se una mano tocca il cromo 4 o il cromo 2, sempre prodotto chimico è, ma non interagisce con la sua formazione genetica. Il cromo 6 o cromo esavalente è uno dei prodotti chimici più pericolosi al mondo. I lavoratori di Praia lo prendevano, e Luigi Pacchiano può testimoniare, con le mani, e lo buttavano nelle vasche. E l'operaio De Palma e l'operaio Ruggero, intervistati da Cirillo e da Pacchiano, ed esistono le documentazioni video, dicono questi due operai: noi ogni sabato facevamo un buco, facevamo questo cazzo di buco mentre tutta la gente di Praia dormiva, e ficcavamo questi fusti sottoterra tra il recinto della Marlane e il depuratore di Praia. De Palma e Ruggero, cromo 6, quando Cirillo gli chiede, ed è sul libro che voi praiesi dovete avere come la Bibbia se la volete rivoluzionare questa città, quando gli chiedono a De Palma e Ruggero, Cirillo e Pacchiano, ma quanti fusti avrai seppellito? Ne abbiamo seppelliti tanti, li seppellivamo ogni sabato. Questi video andranno ora in analisi davanti al Tribunale di Paola. E gli abitanti di Praia queste cose no? C'è chi si va a fare il bagno là sotto, deve saperlo o no? Noi non siamo ambientalisti pazzi, non siamo gentaglia, siamo persone medie, cittadini normali. visto che è presente il sindaco, che io non conosco ma mi hanno fatto capire chi è, io ho una richiesta da fare al sindaco, visto che c'è, e vedete che oggi come oggi, per un sindaco, arrivare in un posto non è mica tanto semplice. Io ho una richiesta, gliela faccio, davanti a tutti. Visto che la massima autorità sanitaria di un luogo è sempre il sindaco, io chiedo al sindaco di fare delle analisi in proprio, cioè che il comune di Praia chiama dei tecnici per analizzare le falde acquifere a metà strada tra il recinto della Marlane e il mare, per vedere che tipologia di liquidi c'è sottoterra, soprattutto dopo che ha piovuto. Se il sindaco fa queste analisi e le rende poi pubbliche, uno, la cittadinanza poco poco si può tranquillizzare, oppure due, comincia una battaglia che è di tutta Praia, perché la gente là va a fare il bagno, perché se c'è il cromo 6 entra nel tessuto genetico, ragion per cui se sottoterra c'è una falda acquifera e quella falda va verso i prodotti agricoli, entra nei prodotti agricoli, va verso il pesce. Guardate, mentre facevamo il corteo a proposito del cromo 6, un operaio che è di Praia ed è stato chiamato a Scio quando hanno chiuso la Marlane, ed è là presente, lo sto guardando in questo momento, ha scoperto che toccava il cromo 6 ancora oggi, pochissimi anni fa, a Schio in Lombardia. Bene, in Veneto, questo operaio ha scoperto che toccava il cromo 6 grazie a Pacchiano. Gli ha chiesto Pacchiano: ma tu fammi capire com'è il suo cromo 6? Una specie di sale, ci dicevano che butta un po' di sale, e io buttavo il sale, è cromo 6. Allora qua c'è un serio problema di informazioni, di cultura ambientale, di solidarietà, di socialità. Siamo, a mio avviso, in una valle di lacrime, e questa valle di lacrime può cambiare solo con l'impegno di tutti. E allora, per esempio, il sindaco, se fa queste analisi e ce ne rende partecipe, fa un grande regalo alla comunità, fa un grossissimo regalo alla comunità. Bene, ora e chiudo. Vedete, sempre qua sul fiume Noce, che sbarca, che sfocia a Castrocucco, ebbene, noi abbiamo avuto per anni, e c'è l'avvocato Rodolfo Ambrosio di Lega Ambiente che sta seguendo questa causa a Paola, abbiamo avuto una ditta, la VTS, che è stata già condannata in primo grado per aver gettato nel fiume Noce 32 milioni e 600 mila litri di percolato da discarica e sangue animale. Nel fiume c'è l'avvocato che sta facendo la causa e sono condannati in primo grado. E questo signore che si chiama Duca Agostino aveva l'impianto a Tortora, a San Sago qua sopra, e un altro impianto sul fiume Crati, dove in tutti e due i fiumi ci sono una grandissima quantità di pietre rosse, sia sotto tra Praia e Tortora e Maratea, sia sul Crati. Se si vedono i video su YouTube, vedete una grande quantità di pietre rosse, cioè il percolato e il sangue animale ha lasciato questi. I depuratori, un altro fenomeno terribile. Vedete, qua in Calabria, a Tortora per esempio, il depuratore comunale gestito qui a Tortora, l'anno scorso ci sono stati due arresti, la signora Plastino è stata arrestata a Tortora. Cioè, non è che stiamo parlando di una magistratura che sta funzionando almeno per queste cose. Cioè, l'arresto c'è stato e tuttora sono sotto inchiesta. In Basilicata, la mia terra, che attenzione, gli amici di Praia e di Tortora devono sapere che buona parte di ciò che a Maratea, Praia e Tortora non funziona nell'acqua del mare. Glielo scarichiamo noi a monte. Ragion per cui se tra monte e mare non c'è un dialogo costante, noi non capiremo mai il problema dove consiste e come fare a risolverlo. E allora, vi parlo di alcuni depuratori. Il depuratore di Parrutta, sopra San Sago, è l'ultimo comune, poi c'è Tortora sotto. Il depuratore di Nemoli. Sono stati gestiti da una ditta che si chiama IB e che oggi poi ha cambiato nome e si chiama Entei. Questa ditta è indagata e condannata per traffici illeciti di rifiuti in Sardegna, in Emilia-Romagna, e gestiscono i depuratori, hanno gestito fino al 31 dicembre, e grazie al nostro intervento con Acquedotto Lucano, con i miei amici di valledelnoce.it, la nostra associazione, che siamo riusciti ad avere un incontro con Acquedotto Lucano e a dire ad Acquedotto Lucano: avete chiesto il certificato antimafia alla IBI? Perché non è possibile che una ditta condannata per traffici di rifiuti gestisca due depuratori che finiscono nel mare di Maratea, Tortora e Praia. Ci dissero, e abbiamo filmato quell'assemblea, ci dissero: il 31 dicembre finisce il rapporto con questa gente. È finito il rapporto con questa gente. Ma ora come funzionano? E siamo andati a vedere, vi prego di guardare su internet un sito che si chiama valledelnoce.it. Andate a vederlo. Siamo andati noi, lui che sta in prima fila, con i guanti da chirurgo, ha messo le mani nel tubo, nella condotta, l'ultima condotta di scarico. Abbiamo trovato gli assorbenti igienici aperti, pieni di una flora di vermi rossi. Quando abbiamo chiesto all'ARPAB di Basilicata com'è che ci sono sti vermi, l'ARPAB, l'ingegnere dell'ARPAB, ha detto: quando ci sono i vermi rossi significa che la colonia che si alimenta è una colonia che vive da un decennio, pertanto c'è un inquinamento molto forte, pertanto bisogna intervenire piazzando cloro, organizzando meglio le vasche. Allora, il problema dell'ambiente nel territorio è un problema serissimo e che possiamo risolvere solo tutti assieme, dove noi non dobbiamo avere paura di avere contatti con la politica, con i sindaci, con gli amministratori. Ma i sindaci non devono aver paura di noi, e nel contempo i sindaci devono fare il proprio lavoro, sequestrando i depuratori nel caso in cui c'è la certezza che inquinino. E invece in Basilicata, pur avendo dimostrato che i depuratori non funzionano, non c'è ad oggi un depuratore sequestrato da un sindaco. Ci sono i comuni che sono condannati a pagare delle sanzioni, ma non c'è un depuratore fermo, perché la politica è agguerrita a difendersi l'uno con l'altro. Cirillo, proprio all'inizio, chiamalo come ti pare, Cirillo all'inizio parlava della raccolta differenziata porta a porta. È importantissimo farlo. I nostri comuni qua nell'area, Cirillo, stanno al 17%, 17, 18, 20. I sindaci gridano: riusciamo a fare la raccolta differenziata, 20%, ma che stiamo scherzando? A Atena Lucana, che è il primo comune della Campania, stanno al 97%, a Capannori, vicino Lucca, al 93%, a Salerno non ne parliamo. Allora, un grosso salto di qualità. E vedete, e vi racconto proprio l'ultima cosa per farvi comprendere quanto la malavita è dentro le istituzioni a volte, perché ora vi dico l'ultima. Pensate che poiché nell'area la raccolta differenziata porta a porta non funziona, l'Unione Europea investe 7 milioni di euro per far aprire una discarica, attenzione, una discarica di 7 milioni di euro, dove la discarica costava 2 milioni, ma il resto era soprattutto per portare due rulli giganteschi due strutture mobili che servivano per differenziare i rifiuti. Vale a dire, i comuni della Basilicata e della Valle del Noce arrivavano coi camion pieni, buttavano la roba su questo tubo, su questo rullo, e il rullo selezionava le bottigliette di plastica, il vetro, la carta, e questa roba veniva portata poi al CONAI, cioè al consorzio degli imprenditori degli imballaggi, per venderla. Bene, scopriamo noi per primi che in questa discarica costata 7 milioni di euro hanno fatto un pozzetto di collegamento in falda, cioè tutte le discariche del mondo sono costruite con la camicia di percolato affinché i liquidi prodotti dai rifiuti non scendano nelle falde acquifere e che poi vengono prelevati, succhiati dalle pompe. Bene, in questa discarica di Lauria, costata 7 milioni di euro, c'era un pozzetto di collegamento in falda. Cosa gravissima. È intervenuta la magistratura, ha sequestrato la discarica. Ma la cosa molto grave è che ad oggi la discarica è stata sequestrata fino a 10 giorni fa. Oggi è chiusa. I comuni della Valle del Noce hanno i depuratori che non funzionano, hanno una discarica che non funziona, hanno un rullo pagato dall'Unione Europea, costato 3 milioni di euro, che non funziona e sta marcendo. Allora questa gente, no, che oggi non è con noi e che vive nell'area, ma che futuro si aspetta per i figli? È un futuro di una tristezza estrema. È certificato che non funziona nulla. Ed è certificato che c'è una classe politica che non funziona. Attenzione però, una critica anche noi ce la dobbiamo fare. Dobbiamo riuscire a parlare con la gente in maniera semplice, in maniera facile, parlando di documenti, di carte. Dobbiamo rimboccarci le maniche e andare a fare i prelievi, le analisi, affinché le nostre battaglie diventino battaglie popolari, popolari. Vedete, oggi, e chiudo per ritornare proprio sull'area, la maggior parte dei lidi che stanno a Maratea, vedete, 2 anni fa andammo a fare un intervento tipo questo di stasera a Castrocucco di Maratea, nel camping di Maratea. Il sindaco di Maratea ci bloccò, il sindaco di Maratea mi tolse il microfono, lo potete vedere su YouTube, mi disse: tu gridi all'allarme. Non conosceva neppure le sentenze della magistratura di Paola. Mi tolsero il microfono. A distanza di 2 anni, sapete che è successo? Non solo che tutti sanno della presenza di queste ditte che trattano rifiuti pericolosi a 700 metri dal mare di Maratea, ma addirittura il camping, dove il proprietario del camping, Vetromile, e il sindaco di Maratea che ci tolsero la parola, sapete che fine ha fatto sto camping? È chiuso, è sequestrato. Sapete perché? Perché non c'aveva l'acqua potabile. E la maggior parte dei lidi vicini, nessuno ha lo scarico fognario regolare nel mare. A Maratea sono stati sequestrati almeno a occhio e croce una 10 di lidi e di camping. Il cementificio che sta poco poco all'interno, quando passate lo vedete sulla sinistra andando verso Lago Negro, è sequestrato. Osva, perché è sequestrato quel camping, quel cementificio? Inquinamento al fiume Noce. Con interventi dei carabinieri del NAS, del NOE. Allora, poiché noi abbiamo ragione, siamo proprio persone moderate, cittadini normali, dobbiamo riuscire a parlare con i commercianti di Praia, con le persone, e a farli intervenire, sapere che l'indagine fatta da Cirillo e da Pacchiano, che è acquistabile nella libreria di Praia, Vittoria. Quell'indagine è palese. In quell'indagine ci sono persone che hanno un nome, un cognome, una data di nascita, che dicono che hanno sepolto là sotto il cromo 6. Io, se fossi sindaco di Praia, non dormirei, non avrei sonni tranquilli, perché un sindaco la prima cosa che deve fare è difendere la propria comunità, il proprio territorio da disastri ambientali, anche se le morti non sono dovute al cromo 6, perché figuriamoci se per noi sarà facile testimoniare in tribunale, far comprendere che quelle morti sono dovute al cromo 6. Circa 100 morti tra Praia, Maratè e dintorni sono dovute a quelle porcherie con cui erano costretti a lavorare. Ma se non certifichiamo quelle morti e facciamo con... Perché è molto difficile, cari amici, andare in processo un avvocato che è là in prima fila, Rodolfo Ambrosio, contro Ghedini, contro gli avvocati dell'Eni, della Marzotto, che scendono con l'elicottero. E non è che è uno, sono 200, perché li pagano. E allora la battaglia deve essere una: riuscire a riportare il cuore al centro del nostro interesse. Oramai a Praia, a Tortora, a Lamezia Terme, a Potenza, a Lago Negro, l'organo, la parte del corpo che oramai dirige l'essere umano è la tasca, questa. Non è manco il cervello più, perché se tu tenessi poco poco di cervello accoppiata alla tasca, ti rendi conto che la tasca si ingrandisce, ma poi ti tolgono il terreno da sottoterra. Dobbiamo riportare al centro il cuore. Se noi riportiamo al centro della nostra attività il cuore, la signora non muore, viene soccorsa subito. È morta dopo 24 ore buttata in un canneto. Nessuno si permette di seppellire cromo 6 vicino al mare. Gli operai, prima di mandare gente a morire, i propri familiari ci pensano 10.000 volte. Chiudo invitandovi il 16 di questo mese, il 16 dicembre, proiettiamo un video qui a Tortora, nella sala consiliare di Tortora. Proiettiamo un video che attesta le nostre ricerche sui depuratori che non funzionano, sulle ditte che gestiscono rifiuti pericolosi nell'area. Ci sarà Rodolfo Ambrosio, che ha la maggior parte delle cause in tribunale a Paola. Ci saremo tutti noi, vedremo il video. Mi piacerebbe, visto che c'è il sindaco di Praia, di organizzare la stessa cosa a Praia, cioè avere la sala comunale di Praia per proiettare queste immagini fatte non da pazzi, da rivoluzionari, da ribelli, da anarchici insurrezionalisti, da mitragliatori, gente che porta i mitragliatori. No, da persone medie, da gente normale, che vogliono vederci chiaro e vogliono andare fino in fondo nella costruzione futura del nostro territorio e della nostra comunità. Ragion per cui faccio partire dopodomani una richiesta anche al sindaco di Praia per avere ospitalità e presenza entro dicembre all'interno della casa comunale di Praia Mare. Perdonatemi se mi sono dilungato, però era proprio previsto da manifesto. Grazie a tutti, allora terminiamo qui questo incontro. Vi ricordiamo chiaramente, per noi la lotta continua, non finisce qui, il comitato continuerà a riunirsi dove ci siamo sempre riuniti, il parroco permettendo, che ringraziamo sempre. Speriamo che il nostro comitato si allarghi sempre di più e continueremo a lottare fino a quando i terreni non saranno bonificati. Grazie. Alla braccia. E vi ricordo sempre che siete all'ascolto di Radio Transizione di Fase. Avete ascoltato gli interventi programmati al fine di questa manifestazione, una manifestazione svolta a Praia per richiedere le bonifiche dei terreni, dei fiumi e dei mari della Calabria. Avete ascoltato dunque questa lunga diretta in questo pomeriggio ed è giunto ora il momento di salutarvi. Vi diamo appuntamento alle nostre prossime dirette, continuate ad ascoltare Radio Transizione di Fase e tutta la sua programmazione. Vi ringraziamo per averci ascoltato, per averci seguito e non ci resta che davvero salutarvi. Arrivederci a tutti.